Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: uno è un tema che continua da lunedì e mi riferisco chiaramente alla vicenda Generali, che oggi si chiama più Unicredit, più 8,31%, ma anche Mediobanca continua a crescere, più 3,90%, e Generali guadagna comunque il 2%. Per quello che riguarda invece Intesa San Paolo è più calma oggi, più 0,17%. Che cosa c'entra Unicredit nella vicenda? Nulla in maniera diretta, però non sfugge a nessuno che Unicredit è il primo azionista di Mediobanca, che a sua volta è il primo azionista delle Generali. Secondo azionista di Mediobanca è Bolloré, e allora l'ipotesi che è circolata, poi ne parleremo, è che Unicredit possa a questo punto disimpegnarsi in Mediobanca. Sono tutte ipotesi speculative, di cui ne parliamo poi a mercati chiusi. Mentre ieri sera, come avete letto sui giornali, è arrivata una prima conferma di un interesse di Intesa San Paolo, conferma ufficiale, sulle Generali. Nella nota diffusa ieri sera la banca ha detto sono in corso di valutazione possibili combinazioni industriali. Questo, fermo restando che Generali ha a disposizione diritti di voto, quindi è un'opzione, perché ha messo una fiche, diciamo, da 20 milioni di euro, sono titoli in affitto in questo momento, che poi potrebbe rilevare, pari al 3% del capitale di Intesa San Paolo, e il che blocca al 3%, diciamo, la possibilità di Intesa San Paolo di crescere in Generali per la legge Draghi sulle partecipazioni incrociate. Quindi una mossa di arrocco difensiva, diciamo difensiva, ma con una ha fatto la prima mossa, alcuni dicono difensiva offensiva, da parte dei Generali. E adesso vedremo le mosse di Intesa San Paolo oggi, domani. Tra l'altro si sono incontrati alla Consob i rappresentanti di Intesa San Paolo e Generali. Domani dovrebbe essere la volta di Unicredit, adesso controlleremo le agenzie. Mentre il consiglio di amministrazione delle Generali a Trieste potrebbe sancire l'uscita dal gruppo del direttore generale Alberto Minali. Anche qui molto si è speculato, c'è chi dice che lui fosse contrario a un avvicinamento di Generali verso il colosso, o così, a un annusarsi tra Generali e AXA, colosso assicurativo francese. Ha sempre smentito un avvicinamento in corso con le Generali, ma insomma la partita si gioca con Allianz, secondo le ricostruzioni, vicina a Intesa San Paolo, quindi il numero uno tedesco, numero uno europeo e tedesco, il numero due è francese a livello europeo ed è AXA, e il numero tre, come ricordavamo anche ieri, è Generali da italiana. Di questo parleremo perché appunto la borsa continua a entusiasmarsi, o comunque a muoversi su questo, nel giorno in cui c'è stato anche un record del Dow Jones. Qui vengo, resto sulla borsa, ma non per parlare dei Generali. Dow Jones, che ha toccato i 20.000 punti nella sua storia, la prima volta nella sua storia che supera quella che è anche una soglia psicologica dei 20.000 punti, a segnalare che continua, diciamo, una crescita del mercato statunitense da quando è stato eletto Trump. Tra l'altro anche il Nasdaq è salito bene, e Dow Jones adesso fa più 0,75%. Ma dicevo, di Trump parleremo in apertura, perché insomma, in tre giorni sta oggettivamente, poi uno può pensare come vuole, ma ha dato una spinta fortissima a tutto quello che era il programma elettorale. TPP, Trans-Pacific Partnership, sospeso, bloccato, fatto saltare. E infatti Australia, Nuova Zelanda, Cina, Giappone stanno ragionando se portare avanti un TPP, un accordo di partnership, di scambio commerciale, anche senza gli Stati Uniti. E oggi ha convocato in questi due giorni, prima i rappresentanti del business, ieri i rappresentanti del settore auto. Tra l'altro è arrivata anche notizia che Toyota investirà 600 milioni di dollari negli Stati Uniti. Oggi, sempre con questo passo molto veloce, ha dato il via alla costruzione del muro al confine con il Messico, primo passo di una politica sull'immigrazione che si annuncia molto restrittiva. Però non è solo il confine e il muro con il Messico che ci interessa, è il fatto che oggi anche il Messico ha preso posizione e ha detto: attenzione, se la riforma del NAFTA, dell'accordo di libero scambio tra Messico, Stati Uniti e Canada, non otterrà chiari benefici, se il Messico non otterrà chiari benefici da una nuova negoziazione, a questo punto non avrà senso restare nel blocco regionale. E il Fondo Monetario fa notare che ha rivisto a ribasso la crescita del Messico proprio per il terreno difficile in cui si andrà a trovare il paese dopo le posizioni di Trump. Ha portato la crescita del Messico dal 2-3% stimato all'1,7% stimato. Parleremo quindi anche di protezionismo. Molti di ascoltatori plaudono a Trump e va benissimo, ognuno lo può pensare come vuole. Attenzione, perché poi noi siamo anche italiani, abbiamo un interscambio commerciale con gli Stati Uniti che vale 40 miliardi di export, ma soprattutto la cosa più importante è un saldo positivo per quasi per oltre 20 miliardi. Cioè la differenza tra quanto esportiamo negli Stati Uniti e quanto importiamo è a vantaggio dell'Italia per una cifra che vale una manovra finanziaria all'anno, detto in maniera molto chiara. Quindi se parte un percorso di protezionismo, è chiaro che uno potrebbe dire: magari il dollaro si rafforza e quindi i nostri prodotti potrebbero essere ancora più vantaggiosi. Però se partono i dazi, noi lavoriamo negli Stati Uniti sulla parte medio-alta soprattutto, è chiaro che non avremo un danno. Altri fanno notare che la classe media, la classe, la working class, la classe, diciamo, dei lavoratori americani che ha votato, pensate alla Rust Belt, alla cintura della ruggine, che ha votato per Trump, potrebbe pagare le conseguenze, perché i prodotti a basso costo sono quelli che vengono più comprati da chi ha minor potere d'acquisto e sono spesso prodotti di importazione cinese. Vi arriveremo, anche perché sulla globalizzazione abbiamo avuto molti commenti critici in questi anni sulla deregulation finanziaria, su quello che è successo fino al 2008, su una finanziarizzazione dell'economia e quant'altro. Però attenzione, che storicamente l'avere eliminato barriere commerciali nel corso dei secoli ha sempre portato i paesi che hanno eliminato barriere commerciali a crescere economicamente. Cioè, non c'è mai stato un caso di un paese che, proteggendosi con barriere, era riuscito ad avere tassi di crescita così alti. Vi arriveremo subito. Per quello che riguarda invece il resto del mercato, segnalo Saipem più 6%, Finecobank più 3,15%, Tenaris più 2,40% e Banco BPM più 2,30%, Buzzi Unicem più 2%. Il fronte opposto è rappresentato da Yuxent Net-a-Porter meno 5%, Terna meno 2,5%, Mediaset meno 2%, Snam meno 1,70%, Enel meno 1,5%, come ricordati. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, un aggiornamento sulla vicenda generali, perché oggi Thomas Buber ha escluso, che è il numero uno di AXA, ha escluso interesse a realizzare una grande acquisizione, quindi un interesse direttamente per le generali. La grande operazione non è nelle nostre strategie, lo ha detto oggi nel corso di una manifestazione organizzata, anzi ieri sera, dalla Süddeutsche Zeitung in Germania. E ha anche spiegato che un'acquisizione di grandi dimensioni da parte di AXA non sarebbe ben accolta dal mercato. Rispetto ai nuovi, leggo assieme a voi l'agenzia, alle nuove voci su un'acquisizione delle generali, Buber ha riferito le parole in inglese che gli ha detto un analista finanziario di primo piano del comparto assicurativo: Thomas, se lo facessi verresti crocifisso. Quindi nega AXA di avere alcun interesse per un'operazione su generali. Vedo che qualcuno mi chiede che succede a Piazza Affari, il rialzo si sta dimezzando. No, Unicredit continua a guadagnare l'8%, Mediobanca al 3,50% e Generali l'1,60%. È vero che Piazza Affari adesso guadagna lo 0,50%, ma insomma, non restano i temi di inizio puntata. Due notizie in breve prima di passare al tema di Trump. E mi riferisco all'industria italiana, dove il fatturato a novembre è salito del 2,4%, gli ordini dell'1,5%, spinta dai beni strumentali soprattutto. Il commercio con l'estero ha fatto a dicembre più 2,5%, più 2,9% nel trimestre. Vanno bene i dati extra UE, però da questo punto di vista su base annua ha fatto più 4% l'export e l'1,8% l'import. Le destinazioni sono più 12% gli Stati Uniti, più 9% la Russia, più 1,3% i paesi OPEC, più 21% la Cina, più 7% il Giappone come export nel mese di dicembre. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, afferma oggi del vice direttore Salvatore Padula. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il 2016 sembra essersi chiuso un po' meglio per la nostra economia. È andata bene la produzione industriale, lo abbiamo visto nei giorni scorsi, e anche il fatturato dell'industria ha segnato nel mese di novembre, lo ha rilevato oggi l'Istat, una crescita mensile del 2,4% e del 3,9% rispetto all'anno precedente. È positivo il fatto che questa buona performance riguardi un po' tutti gli ambiti e si estende praticamente a ogni categoria, dai prodotti di consumo ai beni strumentali. Altro elemento sicuramente incoraggiante è che la crescita del fatturato riguarda in modo più robusto il mercato interno, ma tutto sommato non va male neanche sui mercati internazionali, dove le vendite delle imprese italiane sono cresciute, parliamo sempre del mese di novembre, del 2,2%. Purtroppo però, a conferma di quanto la fase attuale resti delicata e la ripresa in atto sia ancora fragile, emerge che neppure questi buoni dati del mese di novembre riescono a portare il segno più nel bilancio annuale del fatturato dell'industria, che quindi tra gennaio e novembre del 2016 resta ancora in calo dello 0,7% rispetto al 2015. Per concludere, come abbiamo detto, la produzione industriale cresce, però il fatturato dell'industria, che va bene a novembre, fa ancora fatica a ritrovare la rotta. Evidentemente qui si fa sentire la fase di deflazione dalla quale il nostro paese non riesce a uscire. Si produce di più, ma se i prezzi tendono a diminuire, ecco che il fatturato ovviamente non può crescere. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, non possiamo fare una puntata sul protezionismo in senso storico, perché è una delle cose più dibattute nella storia economica, e sappiamo che ci sono stati cicli in cui l'economia si è aperta, gli scambi si sono aperti, cicli in cui l'economia si è chiusa. Raccontammo anni fa in un bellissimo articolo di Toniolo come la Repubblica Serenissima cambiò dall'undicesimo secolo di Venezia, quando scopriva nuove rotte commerciali e apriva nuovi fondachi in tutta, non solo Mediterraneo, ma anche nella parte, diciamo, dell'Atlantico e africana. E poi invece come si chiuse nel 1600 di fronte invece alla Gran Bretagna e agli olandesi, che diventarono il nuovo dominatore del commercio. Si chiuse a riccio, si chiuse imponendo all'arsenale di Venezia di non costruire golette, di continuare a costruire navi che andavano sostanzialmente a remi. Perché lo dico? Perché è una tendenza storica, c'è un momento in cui uno si chiude a riccio. Non hanno mai portato bene a nessuno le politiche di isolazionismo. Qui però il caso è un po' diverso, perché qualcuno può dire attenzione, la globalizzazione è sfrenata, controllata più che altro dalla finanza di questi anni, ha portato sostanzialmente a un impoverimento di alcuni settori produttivi. E vedo già delle obiezioni che dicono: guardate che Trump dice di produrre in America e di assumere in America. Non dice che a produrre in America debbono essere solo gli americani, può essere anche una società straniera che però produce lì e assume americani. Vorrei partire dall'analisi complessiva dei fenomeni protezionistici, perché oggi c'è un bel articolo dell'economista, insegna economia internazionale alla Statale di Milano, Giorgio Barba Navaretti, sul Sole 24 Ore. Buonasera professore. Buonasera a voi. Prima di arrivare a Trump, però insomma, esistono anche dei riferimenti storici, cioè quando tu inizi a alzare barriere doganali, rompi o fai saltare gli accordi di libero scambio, penso al NAFTA che è veramente in bilico, noi abbiamo come serie storica un dato univoco oppure no? E mi riferisco non solo al Novecento, ma diciamo alla storia dell'economia. Beh, diciamo questa che noi abbiamo vissuto, stiamo vivendo adesso, non è certo la prima fase di globalizzazione, come ricordava lei. Già diciamo nella seconda metà dell'Ottocento e fino all'inizio del Novecento i mercati si sono integrati, forse quasi anche più di oggi, per poi invertire la tendenza con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale o in procinto di arrivare alla Prima Guerra Mondiale. Quindi effettivamente storicamente ci sono dei precedenti di reversione dalla, se vogliamo, dalla globalizzazione, dall'integrazione dei mercati, e devo dire con precedenti piuttosto drammatici. Quello che preoccupa forse oggi è il fatto che in realtà mai prima di ora si era arrivata a un'integrazione anche istituzionale così forte, nel senso che non esistevano un tempo organizzazioni, che ne so, come tipo la World Trade Organization oppure altri organismi che in qualche modo erano proprio rappresentavano un'architettura di un mondo globale che poteva anche essere governato istituzionalmente. Ecco, fare marcia indietro da questi accordi, fare marcia indietro da questo ordine effettivamente è molto complesso e solleva molti punti interrogativi. Allora, poi arriva al fronte italiano, che già anticipavo che noi, avendo avuto anche negli anni di maggiore crisi l'export come unico elemento trainante, dobbiamo fare tutto tranne che festeggiare se qualcuno tira su barriere, soprattutto nel mercato di sbocco più importante fuori dall'Europa, che si chiamano Stati Uniti. Ma vorrei restare, siamo sull'analisi. Nel 29 gli USA cercano di difendere, che è l'altra grande crisi che conosciamo, di difendere la loro produzione, rimpatriano massicciamente i crediti erogati all'estero, quindi mettono in ginocchio Germania e Austria e contribuiscono non poco indirettamente all'avvento del nazifascismo, del nazionalsocialismo, scusatemi. Nel 1930 istituiscono un'alta tariffa doganale, detta la Harvey Smoot, che aumentò tutti i diritti al 50%. Imposero severi limiti alle importazioni e l'America Latina a quel punto va in ginocchio, la prima ad essere colpita, Argentina, Uruguay, svalutano la moneta per cercare di esportare di più, poi tocca all'economia europea nel 31, falliscono anche le banche, solo l'Unione Sovietica, che non era un'economia di mercato, viene salvata, Germania e Francia mettono sotto controllo il loro commercio imponendo quote sulle importazioni. Cioè il problema del protezionismo, Barba Navaretti, è che tu inizi, poi hai le ritorsioni, poi parte quell'altro, allora anche la Cina mette i dazi sui prodotti americani, allora anche l'Europa sarà più rigida. Ma andiamo avanti, Germania e Francia appunto rispondono al protezionismo statunitense con il loro protezionismo. Nel 31 la Gran Bretagna, anche lei, impone dazi del 50% su 23 diverse categorie merceologiche. Risultato: nel 1933 il commercio mondiale si contrae del 60%, meno 60%, a livello di volume meno 25%. Negli Stati Uniti questo vuol dire colpire un lavoratore su 4 e in Germania 2 su 5. Questa è l'unica storia recente che abbiamo di quando si cerca di reagire a una crisi tirando su barriere. Cerco di fare l'avvocato del diavolo però, professore. Alcuni dicono, attenzione, è vero che la globalizzazione ha arricchito, ma ha arricchito i paesi più poveri, ha impoverito noi come, diciamo, paesi occidentali. Ma questo non ne siamo così sicuri, perché sicuramente ci sono delle parti della nostra società, della nostra economia, che hanno risentito dalla concorrenza internazionale, ma altre che ne hanno molto beneficiati. Non sappiamo quale sarebbe stato il tasso di crescita dei paesi occidentali se non ci fosse stata l'integrazione dei mercati e la globalizzazione. Certo non è stato gagliardo, diciamo così, il tasso di crescita, però avrebbe anche potuto essere peggio di quello che è stato. Sicuramente processi, pensiamo pensiamo all'importanza di processi come l'integrazione europea, l'integrazione all'interno dell'Unione Europea, questi sono fondamentali. E poi noi non pensiamo mai al lato delle importazioni, cioè il commercio che noi facciamo con i paesi a basso costo del lavoro, tipo la Cina, ha permesso una riduzione dei costi dei beni importati molto rilevante. Oggi moltissimi dei vestiti, dei beni di grande consumo che vengono utilizzati costano molto meno di quanto costerebbero se non ci fosse stato il commercio con questi paesi. Quindi è vero che c'è stata una concorrenza dal lato dei posti di lavoro, dall'altra è anche vero che queste importazioni hanno migliorato il potere d'acquisto dei lavoratori. Quindi prima di arrivare a delle conclusioni bisogna un po' guardare al quadro generale nel suo complesso di chi ha beneficiato e chi ha perso da questa integrazione. Ecco, paradossalmente quello che fanno notare alcuni è che immaginiamo un Trump che vada avanti con dazi forti e blocco anche degli accordi di libero scambio, chi beneficia di più dei prodotti a basso consumo, a basso costo, scusatemi, e quindi quelli che vengono dall'Asia, Cina, Vietnam, sud-est asiatico, sono proprio le fasce più basse della popolazione. Voglio dire, se tu riesci a comprarti una t-shirt a un prezzo irrisorio, abbiamo visto che la biglietta va l'abbigliamento, che la maggior parte, tra l'altro la cosa mi ha fatto ridere, che i cappellini e le sciarpe della manifestazione del giuramento di Trump, quelli con scritto Trump, erano tutti prodotti in Cina. Adesso lo dico perché se lo stesso cappellino che ti metti addosso per festeggiare Trump nel giorno del suo giuramento è prodotto in Cina, se fosse prodotto in America ti costerebbe 3 volte tanto. Allora, io dico, attenzione, perché paradossalmente chi l'ha votato rischia di pagare le conseguenze maggiori. Però è innegabile, professore, che se questo ritorno al protezionismo ha un seguito nell'opinione pubblica, è perché la sensazione, non è solo una sensazione, che una globalizzazione non regolata e non soprattutto equa, cioè se io posso se tu cinese puoi venire in Europa, anch'io posso andare in Cina quanto voglio, abbia impoverito le nostre economie. Continuano a scrivermi ascoltatori al 349-238-6666 che dicono: riportiamo le nostre produzioni in Italia e questo fa ripartire la nostra economia. Ma io temo il problema è che riportare le nostre produzioni in Italia non potremmo fare le stesse cose utilizzando lo stesso numero di lavoratori che usavamo prima del commercio con la Cina e prima che ci fossero le delocalizzazioni nei paesi diciamo così emergenti, perché effettivamente ormai la catena, quella che si chiama la catena globale del lavoro, cioè dove si produce, si è riorganizzata in modo tale per cui certe attività si fanno in quei paesi e da noi non si fanno più, e non avremo più la possibilità di ricreare quei posti di lavoro a salari decenti, perché questo è cui dobbiamo tenere conto. Noi non vogliamo un'industria che in qualche modo fa concorrenza alla Cina abbassando i salari o dando le stesse condizioni ai salari, le stesse condizioni di inquinamento eccetera, non vogliamo quell'industria lì, vogliamo un'industria di alta qualità, di alto valore aggiunto eccetera, che è l'unica che ci possiamo permettere nei paesi avanzati, ma che ovviamente usa meno lavoro, usa soprattutto lavoro non qualificato, usa lavoro più qualificato, usa più tecnologie. Quindi il problema è come dare lavoro, come dare occupazione, come dare attività a chi non trova più lavoro nelle fabbriche, no? Questo è il grande tema che noi abbiamo oggi, che è molto difficile, che poi non è solo legato al commercio con la Cina, è anche molto legato all'evoluzione della tecnologia, per esempio all'automazione, no? Al fatto che anche le macchine sottraggono lavoro, e quindi chi perde il lavoro per colpa delle macchine o per colpa della Cina, bisogna ragionare su come fare a ritrovarglielo. Ho un'ultima domanda per lei, perché poi so che ci deve lasciare, però qualcuno mi dice: sì, ma attenzione, noi compriamo le magliette a 9 euro perché non abbiamo né lavoro né soldi. Sì, ho capito, però sono 9 euro perché arrivano dalla Cina o dal Vietnam, diciamocela tutta. Allora, il punto è: se io riporto la produzione qui o alzo le barriere, sicuramente la maglietta a 9 euro non la compri più. Avrai un lavoro e dei soldi per poter comprare la maglietta, poniamo a 18 euro, perché sarà prodotta in Italia. Questo è il punto. Ho capito, riportiamo, usiamo l'esempio del abbigliamento. La produzione qui, abbiamo un costo del lavoro che quantomeno è doppio, e vorrei essere buono, se vogliamo dare degli stipendi decenti. La maglietta e la t-shirt non costa più 9 euro, ne costa 18, quindi tu devi dare per scontato che verrai assunto e avrai potere d'acquisto tale da pagare l'equivalente t-shirt al doppio del prezzo. Esatto. Però la esatto. Soluzione che lei indica, professore, perché l'errore fatto dall'elite, chiamiamole così, insomma, o anche dai suoi colleghi economisti in questi anni, secondo me, è stato di dire: guardate, non c'è alternativa alla globalizzazione, e questo ha fatto incavolare, come le chiama Sapelli, le masse, perché dice: no, allora tu mi dici che io devo continuare a vivere così, erodendo un po' di potere d'acquisto, marginalizzandomi nell'economia mondiale, e non mi dai una possibilità di uscita perché questo è il migliore dei mondi possibili, io ti voto contro, come, almeno come reazione, poi magari, almeno come protesta, poi magari anche come proposta. Qual è la soluzione che chi cerca di difendere, diciamo, le conquiste del libero scambio, che avvantaggia i paesi esportatori come l'Italia, qual è la soluzione che potete trovare? Non si può ignorare che stia montando questo movimento. Trump ne è un'espressione, pensiamo alla Gran Bretagna, vedremo le elezioni in Francia e in Germania, professore. Beh, certo, senza dubbio delle risposte vanno date, sicuramente non sono state date delle risposte giuste e corrette, cioè la fede nella globalizzazione ad ogni costo ed in ogni modo sicuramente non funziona ed ha avuto dei grandi danni. Dall'altra parte non possiamo neanche pensare di alzare delle barriere commerciali molto elevate, perché appunto se volessimo vendere le magliette a 18 euro potremmo farlo solo in un mercato molto protetto, ma un mercato molto protetto sarebbe piccolo, a chi le vendiamo? Non ci sarebbe più mercato per poterle vendere, quindi posti di lavoro non ci sarebbero perché non potremmo esportare, no? Perché se tutto il mondo diventa autarchico è un guaio. Allora è difficile trovare una via di mezzo, cioè con un po' di protezione ma non troppa, e cercando di non perdere troppi posti di lavoro. È molto difficile trovare una soluzione intermedia, però ci sono delle cose che si possono fare. Ad esempio si può evitare, per esempio fare delle politiche che in qualche modo permettono di evitare di importare, che ne so, dalla Cina prodotti che non hanno dei determinati standard, che sono prodotti a salari troppo bassi, eccetera. Questo effettivamente si potrebbe fare, quindi le azioni antidumping che si fanno nei confronti della Cina, queste cose qui sono fondamentali per cercare di in qualche modo attutire un se vogliamo, un processo al ribasso delle importazioni. Beh, questo però, professore, vuol dire ammettere che siamo stati anche, a maggior ragione chi ci ha guidato, un po' troppo entusiastici di questa globalizzazione a inizio degli anni 2000, quando la Cina entra nella WTO 2001. No, nel senso che abbiamo lasciato che la Cina avesse un mercato abbastanza chiuso per il nostro export, lo sanno molti imprenditori italiani che hanno provato a entrare lì, e invece da qui, dalla Cina arrivava tutto. Forse questo, diciamo, mal di pancia forte potrà anche servire a ridefinire meglio certe forme di libero scambio. Può darsi, però pensiamo, secondo me non abbiamo neanche le istituzioni adatte a confrontare quella concorrenza. Si pensi a un istituto tipo la Cassa Integrazione, che ha tenuto per anni i lavoratori legati a delle aziende che magari erano completamente bollite e decotte, invece di tutelarli, cercare di riqualificarli, aiutarli a trovare un lavoro in qualche cosa che ripartisse. Cioè l'Italia anche ha avuto delle rigidità che hanno reso molto più costosa l'interazione con queste importazioni dalla Cina, con la globalizzazione, con questi esportatori. Quindi diciamo, da un lato sì, certo, bisognava fare qualcosa con la Cina nei negoziati bilaterali, e per esempio degli accordi tipo TPP, dove non c'è la Cina, definivano degli standard che obbligavano i paesi emergenti, ad esempio, a dare delle condizioni di lavoro e delle condizioni ambientali decenti. Cioè sono degli accordi in cui ti dice: io ti apro il mercato, ma tu sei obbligato ad avere certi tipi di standard. Questo è un modo intelligente per in qualche modo evitare quello che si chiama il dumping, la corsa al ribasso negli standard e nelle condizioni, che effettivamente in certi casi è stata applicata. Ecco, il protezionismo non risolve molti di questi problemi, secondo me. Allora, poi sentiremo nel concreto con la cronaca di Mario Platero. Intanto ringrazio il professor Barbara Navaretti per questo intervento con Mario Platero. Che cosa poi concretamente vuol fare Trump? Grazie quindi a Giorgio Barbara Navaretti, docente di economia internazionale alla Università Statale di Milano. Vedo molti messaggi, per carità. Attenzione, il tema non è difendere questa globalizzazione a tutti i costi, non me ne frega proprio nulla. Il tema è non buttare via il bambino con l'acqua sporca, e cioè non dire: vabbè, siccome alcune cose non hanno funzionato, ed è vero, e ce ne siamo occupati per anni, pensate all'acciaio prima della crisi, a cosa succedeva con la raccolta che faceva la Cina di rottame ferroso, e alle iniziative in dumping fatte molte volte dai cinesi, e non solo, al fatto che qui giustamente in Europa ci siano delle norme molto stringenti sull'impatto ambientale che non vengono per nulla rispettate nell'economia in via di sviluppo. C'è stata un'adesione, alcuni mi scrivono, perché faceva comodo alle multinazionali. Può essere, non, può essere, però detto questo, attenzione, perché noi siamo un paese esportatore, ci sono interi settori industriali di questo paese che ormai viaggiano tra il 60, il 70 e l'80% di export. Non facciamoci del male da soli. E se qualcuno pensa che la soluzione sia andare a produrre quello che producono i cinesi, per me è una follia totale, perché devi a un certo momento, svalutando, è ovvio che arriverà sempre la soluzione della svalutazione, esci dall'euro e svaluta la tua moneta, perfetto, svalutando la moneta io riesco forse a produrre un bene a parità del costo cinese, secondo me nemmeno così. Però poi non voglio sapere cosa capita al mio debito, visto che siamo al secondo debito mondiale, e soprattutto io non compro più nulla, cioè il nostro potere d'acquisto sul fronte dei beni importati diventa pari a zero, andiamo all'autarchia a quel punto. Comunque, meteo, pubblicità e poi Mario Platero. La soluzione non è, a mio avviso, rimettersi in concorrenza con Cina e Vietnam, ma è casomai lavorare come abbiamo fatto, come ha fatto la nostra impresa, sulla fascia medio-alta. Così rispondo anche a alcuni ascoltatori. E poi una cosa che non abbiamo mai fatto: riqualificare il lavoro. Tutti si riempiono la bocca di questo. In Germania, visto che spesso la critichiamo, lo fanno seriamente. Prendi una persona che è in cassa integrazione o che è disoccupata e lo riqualifichi, ma veramente, non con i furti dei corsi di formazione con quattro chiacchiere. E invece sull'istruzione siamo all'anno zero. Comunque, meteo, dai. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. ...17:46 minuti, abbiamo un po' fatto saltare i blocchi, fra poco andiamo sul traffico, ma insomma Mario Platero, Mario Ivanka Platero, pronto? Eccoci. No, caro Sebastiano, allora, eccoci qua. Adesso ti aggiorno, abbiamo appena raccontato quanto già scritto oggi da Giorgio Navaretti sulle 24 ore, sui rischi di arrivare a un protezionismo spinto. E che, ripeto a chi mi scrive, non significa benedire sta globalizzazione, l'abbiamo criticata soprattutto su alcuni produttori migliaia di volte. Attenzione però a buttare via, ripeto per la seconda volta, il bambino con l'acqua sporca. Vediamo la cronaca, mi sembra che Trump, però adesso tutto si può dire, ma insomma la borsa americana ha toccato un nuovo record, sia Wall Street, sia Dow Jones che il Nasdaq, oltre 20.000 punti. Ha sorpreso tutti sulla velocità di esecuzione. Vedo che oggi Toyota annuncia che investirà 600 milioni di dollari per rinnovare gli impianti di produzione nello stato americano dell'Indiana, creando 400 posti di lavoro. La Apple invece ha detto che è pronta a produrre in India, e va bene, ma il Messico ha detto: se la riforma Trump non convince, saremo noi a lasciare il NAFTA, il libero scambio con Stati Uniti e Canada. E tra l'altro il Fondo Monetario rivede a ribasso la crescita messicana. Insomma, l'effetto politico Trump l'ha già avuto, ha twittato oggi un grande incontro con il numero uno della Ford, di General Motors, ha sorpreso tutti qui perlomeno la velocità di esecuzione, Mario. Sì, devo dirti, infatti, Sebastiano, hai colto assolutamente nel segno. Donald Trump non ha perso un attimo dal punto di vista del tradurre in azione le sue promesse elettorali. Non si è fermato un secondo, ogni giorno ha avuto incontri che, devo dire, hanno creato a noi giornalisti problemi, perché ognuno di questi incontri con 15 sindacalisti, con una dozzina di amministratori delegati il primo giorno, poi con i grandi dell'auto il giorno dopo, con vertici del congresso, insomma è stato un continuo. E la cosa interessante è che si dice in genere, già vabbè, insomma, una cosa sono le promesse elettorali, una cosa è governare, quindi quando chi viene eletto poi va al governo qualche cosa annacqua. Invece con Trump non è così, lui sta dimostrando di voler tradurre in azione tutte le sue promesse elettorali e di farlo subito, per cui oggi è il muro, ma non è solo il muro, sono anche le limitazioni per certi visti di personaggi che possono arrivare da paesi sospetti per il terrorismo. C'è l'idea di tenere aperta Guantanamo, c'è l'idea oggi ha parlato di terrorismo, ha parlato di immigrazione, negli altri due giorni di lavoro e di industria, di manifatturiero. Insomma, sta andando avanti seguendo un'agenda, non ha parlato ancora di banche e di finanza, però Posso dirti che questa mattina ho visto Brian Moyan, che è l'amministratore delegato di Bank of America, e ha fatto una chiacchierata molto interessante. Gli ho chiesto, dico, ma allora, ma quando è che vedete Trump? Dice, per ora ancora non ci ha chiamati, però era positivo per le cose che dicevi te. I consumi tirano, la fiducia dei consumatori e del business è migliorata, e alla fine anche questo, ecco, è importante. Mario, dopo il traffico vorrei chiederti però un'ultima cosa: dove si fermerà? Nel senso che finché il Messico, insomma, ha sorpreso tutti, ma il tema, il big fish, come dite voi in America, è la Cina in questo momento, cioè capire fin dove si spingerà nella politica, nello scontro, nella guerra commerciale con i prodotti cinesi. Dopo il traffico la risposta. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Allora, fin dove arriverà? Anche perché mi fa notare un ascoltatore, ha molte critiche su questo, però dice, attenzione, proprio adesso che prima i mercati emergenti si sono arricchiti producendo beni per il nostro mercato, ma adesso che stanno sviluppando una classe media, penso alla Cina, all'India, e che iniziano a comprare prodotti occidentali, gli mettiamo i dazi. E questa non è una difesa, molti mi scrivono sulle multinazionali, anche americane, che ti vendono qua a 90 euro e producono in Vietnam un euro. Ho capito, quello non va bene, però il punto non è premiare e dire che brava che è la multinazionale X a sfruttare i lavoratori in Cina e vendere qua come se producesse in Italia. Il problema è capire cosa facciamo nelle nostre produzioni. Comunque, Mario Platero, fin dove arriverà con la Cina? Perché la Cina ha in mano una bella fetta del debito americano, e poi è la Cina. Sì, allora, dove arriverà non solo con la Cina ma anche sul resto? Allora, ecco, una delle cose che ha detto per esempio Moynihan stamattina, e cito lui perché comunque è uno dei più grandi banchieri del mondo, è che secondo lui non bisogna interpretare in modo necessariamente restrittivo quello che dice Trump. Anche una volta l'ho scritto in uno degli articoli, qui bisogna tradurre Trump. C'è qualcosa che it gets lost in translation, come diceva il vecchio film. Quando lui dice protezionismo, in realtà dice commercio equo. Lui sostiene che gli Stati Uniti sono penalizzati in modo eccessivo nel momento in cui concedono determinati favori e apertura ad altri paesi. Ecco, non vuole chiudere i flussi del commercio mondiale, vuole cercare di ottenere un equilibrio a favore degli Stati Uniti, che hanno un disavanzo della partita commerciale ovviamente enorme nei confronti della Cina, poi stiamo parlando di centinaia e centinaia di miliardi di dollari. Ecco, questo è il suo obiettivo. Ci saranno degli impatti sull'economia? Forse sì, forse no. Io non credo che Trump, che pure ogni tanto devo dire, Sebastiano, dimostra di avere questa debolezza un po' autodistruttiva quando dice che 5 milioni di immigrati illegali hanno votato per Hillary Clinton. Poteva starsene zitto, è scoppiato un polverone in congresso, ha ricreato tensioni, eccetera. Però Trump è un uomo intelligente, un uomo pragmatico, e lui vuole, lui sta facendo questa grande campagna mediatica per far vedere che sta mettendo in pratica le cose che vuol fare, ma non credo che vada fino in fondo a strangolare quello che invece è un inevitabile, indispensabile per tutti, flusso di commerci che poi tiene in piedi l'economia mondiale. Ed è l'economia mondiale che cresce, ci sono quattro aree fondamentali: l'Europa, gli Stati Uniti, l'India e la Cina. Lui le ha ben presenti, vuole riequilibrare qualche cosa e lo farà per far vedere alla sua base elettorale che qualcosa ha fatto, ma che la Cina cresca e che cresca bene è anche negli interessi degli Stati Uniti. Allora, grazie anche a Mario Platero, non vedo molti commenti su questo, però attenzione, noi seguiamo poi la cronaca. La notizia, visto che ancora facciamo i giornalisti o ci proviamo, è la velocità, ripeto, di esecuzione con cui Trump sta andando su tutti i temi della campagna elettorale, appunto, dagli immigranti al Buy American, Hire American e quant'altro. Poi vedremo quando arriverà, diciamo, il dialogo, la diplomazia, quella alta e grossa con la Cina e non solo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, da tutti i temi che riguardano il commercio mondiale. Poi nella seconda parte del programma ci occupiamo invece di temi molto italiani, italo-francesi, forse italo-tedeschi. Mi riferisco alla borsa, a Generali e al botto che ha fatto oggi Unicredit. quasi il 9%, nonostante sia sotto aumento di capitale. Appunto, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Certe imprese sono possibili solo grazie agli dèi dello sport. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Io sono qui per raccontarvele. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30. Naturalmente qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Deborah, ci sei? Sì, ma ho un dolorino un po' qua dietro al collo. Perfetto, cadi a fagiolo tempismo, magnifico perché a febbraio Cuore Denari è il mese delle articolazioni. Il professor Carlo Selmi, che è responsabile di reumatologia e immunologia clinica a Humanitas, ma anche docente all'Università degli Studi di Milano, ti rimetterà sicuramente a posto e soprattutto ci farà capire se ti lamenti di gamba buona. Mi sento già meglio, però mi è rimasto un po' di bruciorino di stomaco. Ma Deborah, dai, ce l'hai tutte tu. Dai, ascolta Cuore Denari, ogni mese un consiglio per investire in salute. Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gegè Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck. Sempre soltanto su Radio 24. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso passiamo alla parte di borsa e di finanza italiana, quindi generali, o meglio Unicredit. Per ora tralasciamo i titoli legati in qualche modo a questa vicenda, appunto Unicredit più 8,90%, Mediobanca più 3,11%, e per quello che riguarda il titolo generali, alla fine ha ridotto la crescita all'1%. Intesa San Paolo, che in questi giorni era stata penalizzata invece dal mercato, oggi guadagna lo 0,35%. Concentriamoci sul resto, che si chiama soprattutto un nuovo record storico, anche perché la soglia è di quelle che gli operatori chiamano psicologica, dei 20.000 punti per il Dow Jones, e altri titoli con Eleonora Micheli, Radio Corriere, Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera. Partiamo da chi è andato in negativo. Qui c'è un report, Hughes Net-a-Porter meno 5,40%. Hughes infatti ha segnato la peggior performance del FTSE MIB, diciamo a penalizzare le azioni è stato un report di Exane BNP Paribas che ha rivisto a ribasso le stime, ma soprattutto ha indicato che la concorrenza nel settore delle vendite online si fa sempre più forte, si fa sempre più agguerrita e dunque Hughes potrebbe perdere quote di mercato. In particolare Exane ha puntato l'indice su una società nata nel 2008, Farfetch, che sta crescendo a un tasso del 60% l'anno e dunque nel giro di 24 mesi secondo gli analisti potrebbe superare la stessa Hughes Net-a-Porter. E poi invece in positivo, oltre alle vicende che ricordavo, c'è Saipem più 6,5%. Sì, Saipem ha fatto più 6,4% visto che diciamo c'è un po' un rimbalzo, un recupero rispetto alla debolezza dei mesi scorsi, ma soprattutto si scommette sul fatto che la società possa beneficiare delle promesse anche in questo caso del presidente americano Donald Trump, che è tornato a parlare, a sdoganare le trivellazioni negli Stati Uniti, e quindi ne potrebbero beneficiare tutte le aziende che operano proprio nel settore delle trivellazioni e delle ricerche di petrolio. Allora, sempre legato a Trump, penso che anche oggi sia il rialzo di Fiat più 0,90%. Ieri Trump ha promesso ai costruttori di auto misure meno stringenti sull'impatto ambientale, sappiamo cosa voglia dire questo per gli scandali recenti, mentre tra chi perde Salvatore Ferragamo meno 2,20, Terna meno 1,80, Enel meno 1,60, Snam meno 1,40, Recordati meno 1,30, Eni meno 1,30 e Mediaset il 2,80%. Ci sono novità su Mediaset, e assieme a Mediaset se mi dai anche ST Microelectronics, dove c'è attesa, se non ricordo male, per la trimestrale di domani. Per quanto riguarda ST, questa mattina va segnalato che addirittura i titoli hanno segnato un progresso dell'11%, poi hanno rallentato il passo e chiuso con un rialzo dell'1,27%. Domani all'alba l'azienda pubblicherà la trimestrale, ma si scommette che sia positiva, soprattutto perché Texas Instruments ha pubblicato proprio oggi dei conti superiori alle attese. Per quanto riguarda Mediaset, ha imboccato la strada del ribasso, anche perché l'attenzione si è spostata sulla vicenda di Generali e quindi l'altro fronte caldo di Mediaset è passato un po' in secondo piano e la speculazione sta un po' uscendo. A livello di notizie è emerso che la Gcom la prossima settimana, inizio febbraio, è pronta a sentire i vertici di Vivendi, anche quelli di Mediaset, sempre sulla vicenda, ricordiamo, Vivendi Mediaset, con Vivendi salita al 30% del capitale. Sì, che il fronte francese in questo momento, al di là delle varie ipotesi e indiscrezioni di questi giorni sulla vicenda Generali, di cui parleremo fra un attimo. Andiamo avanti. Bene, oggi anche i bancari, Finecobank più 3,40, BPM più 3,20, UbiBank più 1,60, BPerBank più 1,20%. Tutte positive le banche, Monte dei Paschi è ancora sospeso, quindi conferma chi me lo chiede che non è in contrattazione. Leonora. Per quanto riguarda le banche, oggi sono andate bene, semmai i riflettori puntati su BPER, perché l'amministratore delegato Alessandro Vandelli ha confermato che a breve, nelle prossime settimane, dovrebbe concludersi l'acquisizione di Carife, operazione, ha sottolineato il manager, che non richiederà aumenti di capitale. Inoltre ha aperto anche un interesse verso il credito valtellinese, di cui tanto si parla, mentre ha chiuso nei confronti di Unipol Banca, asserendo che un'operazione, in questo caso acquisizione eventualmente del credito valtellinese, sarebbe più che sufficiente. Allora, un ascoltatore mi scrive: il fatto più rilevante della giornata di borsa è il crollo finale di 200 punti del FTSE MIB in pochi minuti, che neanche ha citato nel suo pseudo commento. Vabbè, che sia un pseudo commento va bene, ma guardi che l'abbiamo citato la correzione nella parte finale negli ultimi minuti, dopodiché non ha mosso i titoli principali, mi riferisco, della vicenda principale, mi riferisco a Unicredit più 8,90%. Faccio notare che Milano ha chiuso con un più 0,40, Parigi più 1%, Francoforte più 1,80 e Londra più 0,20%, mentre il Dow Jones continua a guadagnare lo 0,70%. Però è vero che c'è stato un riallineamento, insomma, guadagnava quasi il doppio Piazza Affari prima della chiusura, Leonora. Esatto, diciamo a un'ora dalla chiusura, un'ora circa dalla chiusura, il FTSE MIB ha segnato un rialzo dell'1% con Unicredit che saliva del 9%, quindi c'è stata un'accelerata. Poi effettivamente sul finale c'è stata una decelerazione, comunque le borse europee hanno chiuso positive, con Milano che tuttavia è stata, diciamo, in seconda fila rispetto ad altri listini, Francoforte la migliore, proprio perché alcuni titoli si sono mossi al ribasso. Sì, tra l'altro segnalo che Eni è un titolo pesante che ha fatto meno 1,30, anche Telecom ha fatto meno 1%, Case New Holland meno 1%. Andiamo sui migliori e peggiori: CHL più 32%, Full Six più 26%, Mail Up più 25%, poi c'è Landi Renzo più 20%, Softec più 20%, Novatec più 18%. Il fronte opposto vede invece ROS meno 6%, SMRE meno 6%, risanamento meno 5,70%, Invest meno 5,70% e di Uxnet a Porte abbiamo appena detto, Zucchi meno 4,70%, poi la cassa del risparmio di Genova meno 4,20%. Grazie, Leonora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Andiamo sul traffico e poi parliamo del nuovo capitolo nella vicenda Generali. Focus Economia. :18:16. Allora, al di là del messaggio di un ascoltatore che scrive Barisoni Pirla, non so se sia una domanda, un'affermazione, vabbè. uno slogan, un invito, che no, non lo so. Comunque, detto questo, andiamo alla vicenda generali che stiamo raccontando da lunedì. Ieri in serata le prime conferme, dopo che Generali ha fatto la mossa in anticipo, mossa difensiva-offensiva della Rocco, cioè ha comprato, ha le opzioni per comprare, le ha affittate, il 3% di Intesa San Paolo. In questo modo, se le esercitasse questa opzione, bloccherebbe l'eventuale ingresso di Intesa San Paolo in Generali a una soglia del 3% per la legge Draghi sulle partecipazioni incrociate. Quindi, prima di capire cosa voleva fare Intesa, Generali si è mossa in versione di, chiamiamolo così, arrocco. Ricordo sempre, perché se no non ci capiamo, le Generali, primo gruppo assicurativo italiano e terzo in Italia, hanno come principale azionista, il principale azionista è Mediobanca con il 13,5%, il gruppo creato dal francese Philippe Donet, ex di AXA. Mediobanca, dentro Mediobanca, cioè dentro il primo azionista delle Generali, ci sono, c'è cioè UniCredit che ha l'8,5%, guidata dal francese Moustier, poi Bolloré all'8%, Mediolanum il 3,3%. Intesa San Paolo invece, diciamo, ha come principale azionista la Compagnia di San Paolo, Fondazione Caliplo, ma non è presente, non è più presente in Generali. Cosa è successo ieri sera? Intesa San Paolo ha confermato un interesse su Generali dicendo che sta valutando possibili combinazioni industriali. La domanda di oggi però è un'altra, ossia è UniCredit, nel senso che, come ricordavamo prima, Generali si sono mosse poco, più 1%, Mediobanca si è mossa ancora, più 3,1%, Intesa che ha perso in questi giorni ha fatto più 0,35%, ma il botto l'ha fatto UniCredit con quasi il 9%. Allora, da questo punto di vista, siccome UniCredit non è direttamente dalla partita ipotizzata, ma è il principale azionista di Mediobanca, qualcuno inizia a dire, beh, forse si sta ragionando se UniCredit vuole smantellare o ridurre la sua quota in Mediobanca. Ricordo che UniCredit è anche sotto aumento di capitale. Ultime due notizie di cronaca, prima di dare la parola a Alessandro Paterotti. Il numero di AXA ha escluso nel corso di una manifestazione organizzata dalla Süddeutsche Zeitung in Germania, lui si chiama Thomas Buberl, ha escluso qualunque interesse per una grande operazione, verrei crocifisso se lo facessi. E nel frattempo oggi in Consob è terminata l'audizione del primo dei tre soggetti chiamati, Intesa San Paolo, sono stati chiamati anche chiaramente Generali e UniCredit. Alessandro Paterotti, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Prima l'ho spiegato, è sempre difficile in radio spiegare le partecipazioni incrociate, però se questa è la partita che finora abbiamo raccontato come Generali ed eventualmente AXA, Intesa ed eventualmente Allianz, ieri parlavamo anche dello scontro tra, insomma, la visione di Messina, numero uno di Intesa, e Alberto Nagel, quindi numero uno di Mediobanca, il ruolo di Mediobanca e quant'altro, oggi il mercato punta su UniCredit, che è la prima domanda che ho per te. Sì. Beh, questo è il piano B, diciamo, in questi termini, che poi in realtà è precedente a questa operazione, a queste vicende che riguardano Generali, perché già da un paio d'anni buoni si discute di una possibile fusione tra UniCredit e la stessa Mediobanca. Ora operano una come controllata dell'altra, sostanzialmente il maggior azionista UniCredit, però attenzione, perché da tempo si parla di un riassetto con una fusione di Mediobanca e UniCredit, la nascita di una ricomposizione della banca d'affari, della ex banca affari di Enrico Cuccia, e soprattutto riportare la quota di Generali direttamente sotto il controllo e l'orbita di UniCredit. E questo lo scenario? Potrebbe sicuramente essere una delle carte in gioco su cui sta puntando il mercato, perché l'andamento dei titoli questo riflette, ma in realtà quello che sembra molto plausibile, concreto per il mercato, è che comunque questa operazione, questo scontro fra Intesa, Generali, i possibili acquirenti esteri, segnerà comunque una svolta. Come avvenne, ricordate questo, il precedente di un'operazione in cui una società, una assicurativa, in questo caso è Generali, interviene a gamba tesa nel capitale di un'altra, come ha fatto Generali su Banca Intesa, e fu Arpe, Matteo Arpe, quando comprò, certo, il 3% di Intesa per fermare l'operazione che lui riteneva che Geronzi e Bazzoli stessero mandando avanti. Ma qual è stato il risultato di quell'operazione? Che Intesa si è fusa con il San Paolo. E che Capitalia è entrata in UniCredit. Allora, questa è la scommessa di fondo, perché, diciamo chiaramente, la portata di queste operazioni, la valenza strategica o anche simbolica che hanno queste società, è tale per cui non si fanno guerre di posizione. o lì si agisce, e si, come fu fatto ad esempio fra Intesa e San Paolo, Capitalia e Unicredito, che annunciarono direttamente ai mercati la mattina di aver fatto l'operazione. Ma quando si entra in una guerra di trincea come quella che sembra attualmente in corso, sì, la scommessa riguarda che succederà a soluzione avvenuta, non chi sarà il vincitore generale, cioè sarà un compromesso che fa uscire tutti dall'impasse in cui magari c'è uno spezzatino delle generali, non lo escludete. Le generali fa gola per l'asset management, tutta la parte della gestione dei fondi, polizze assicurative, immobili, attività internazionali fra l'Est Europa e l'Europa continentale. Quindi per questo fa gola agli stranieri, ma per questo potrebbe anche essere interessante per Intesa, ecco, arrivare a una trattativa. Alessandro, ti fermo su questo, perché la domanda che ci ponevamo anche ieri e oggi, insomma, resta di estrema attualità, è la seguente. L'operazione da un punto di vista politico-sistemico è chiarissima. Qui c'è un timore, tant'è che facevo notare che anche oggi mi sembra non vi sia neanche un sottosegretario del governo che faccia una mezza dichiarazione su questo. Abbiamo visto invece dichiarazioni molto forti quando Bolloré, anche da parte del ministro Calenda, saliva in Mediaset. Cioè, che io dubito che le dichiarazioni non avvengano perché sono disinteressati, forse perché diciamo, assumono un atteggiamento più prudente. L'obiettivo finale dell'operazione in termini sistemici e finanziari, quasi anche politici, è chiaro. Qui c'è il numero 3 assicurativo in Europa, il francese è il numero 2, il tedesco è il numero 1, c'è una banca come Intesa San Paolo che non è sotto aumento di capitale come Unicredit, che ha molta liquidità, che ha dei ratios patrimoniali solidi, insomma, che il sistema si stia muovendo è chiaro. Quello che a noi sfugge è l'obiettivo industriale, non quello finanziario, sistemico, chiamiamolo così, politico. E cioè, che il modello di banca assurance, di banca e assicurazione, è fallito anche in Francia, non ne parla più nessuno. Allora, un eventuale interessamento di Intesa su Generali, tu dici il risparmio gestito, lì c'è Banca Generali, ma non fai prima a comprarti Banca Generali e scalare Banca Generali? Allora, primo, non è solo Banca Generali, ma Banca Generali sarebbe una parte di quello che interessa a Banca Intesa, perché abbiamo oltre a Banca Generali tutta la parte, diciamo così, non tanto del Vita, che lì ci sarebbero delle sovrapposizioni di antitrust che lo rendono complesso, ma tutti, la rete di fondi che sono fra l'Irlanda e l'Inghilterra, che operano, sono veri hedge fund che operano come asset manager, con presenza internazionale sui mercati finanziari più importanti. Quindi andiamo oltre l'aspetto più strettamente legato alla Banca Generali in questo senso. C'è senso industriale? Nessun analista, se il titolo d'Intesa sta cadendo, è perché ovviamente la riflessione che hai fatto tu se la pongono tutti gli operatori finanziari, dicendo, ma insomma, sotto il profilo industriale è una scommessa al buio questa per Intesa e che presenta molte incertezze. Ma attenzione, proprio in virtù di quanto dicevi tu, cioè l'eccesso della grande liquidità di cui dispone Banca Intesa e i ratios patrimoniali, fanno sì che in questo momento Banca Intesa sia percepita dentro e fuori la banca come un cavallo pronto a correre, cioè come l'unico candidato in Italia a fare qualche cosa. Allora, che cosa succederà? È un punto interrogativo, nel senso, io ti dicevo prima dell'aspetto del possibile spezzatino, solo per un motivo, proprio per quello che stai dicendo tu, cioè qui si possono prendere degli asset importanti e frammentarli, certo significa distruggere una parte storica attenzione. In tanti paesi abbiamo visto superare vecchia, cioè, ricordi anche in Svizzera, insomma, quella fusione fra la UBS che ci sono state, hanno ricomposto, ma anche in America, Signa, le grandi compagnie assicurative, alcune sono scomparse, altre no, ma non è solo questo, tieni presente che un tempo Generali e Mediobanca erano la cassaforte delle grandi imprese italiane, del sistema finanziario e del sistema industriale. Sono scomparse tutte queste partecipazioni, o quasi tutte. Allora, non essendoci più un senso strategico, come era una volta, nel controllo di queste due entità, perché bisogna fare una battaglia sulle generali, su Banca Intesa? Ma soprattutto su generali, punto interrogativo. Questo, oddio, uno potrebbe dire perché le generali sono anche la cassaforte, insomma, hanno una marea di titoli di Stato italiani. Ogni volta che c'è un'operazione di sistema si chiede alle generali di partecipare. Cioè, il fatto che abbiano 500 miliardi di asset è ancora un valore per il paese. Però ma fai attenzione, chi è che gestisce in questo momento le generali? un top management al vertice, non parlo solo dell'amministratore delegato, francese. Sì, cioè sì. Già gli abbiamo dato una proiezione che guarda i suoi, gli azionisti di Generali hanno scelto di dare alla compagnia una proiezione internazionale non più italiana, altrimenti avrebbero messo un manager italiano. Ricordo che Moustier, Daniel Bouton, Oudéa sono tutti personaggi che vengono da SocGen o dall'ambiente finanziario francese, si conoscono tutti molto bene e gestiscono insieme che cosa? L'incapacità del nostro sistema finanziario, del nostro paese di fare di sistema, uscire dal capitalismo, passare dal vecchio capitalismo relazionale a un nuovo capitalismo fatto di relazioni internazionali, cosa che in questo momento ci manca. Per parafrasare una vecchia frase, come è fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, noi abbiamo fatto il mercato ma non abbiamo fatto gli azionisti. Questo crea la debolezza strutturale del nostro sistema. Due riflessioni ancora. Una la propongono gli ascoltatori. Ma se in realtà l'intera partita fosse che Unicredit va a cedere la propria quota in Mediobanca direttamente a Intesa? Scusami, Generali, non ho capito. No, se fosse l'operazione che Unicredit va a cedere la sua quota in Mediobanca direttamente a Intesa? No, assolutamente, perché almeno in questo momento l'asse tra Mediobanca e Unicredito è fortissimo per le cose così come stanno. Ti dicevo, semmai c'è latente sempre quell'altro disegno, che è quello di integrare Mediobanca all'interno dell'investment banking di Unicredito e di farne qualcosa di più potente. Quindi io non credo. Ultima domanda invece, quanto contano gli aspetti personali? E qui vengo al rapporto, diciamo, che era già molto conflittuale tra Messina e Alberto Nagel, nella vicenda Rizzoli Corriere della Sera, poi la spuntata Messina appoggiando Cairo, Nagel appoggiava la croce di Bonomi. C'è chi dice qui attenzione, c'è anche uno scontro, insomma, poi c'è chi dice che Bazoli dietro Messina, per carità, che l'operazione è stata pensata molti mesi fa con ancora Renzi Presidente del Consiglio, ma insomma quanto può valere in un mondo in cui insomma, antipatie, no, l'effetto antipatie, l'effetto no, più che antipatie è anche protagonismo, non solo antipatie, no, diciamo. Io lo colloco in un posto molto marginale in questa partita, perché ricordiamoci che questi sono top manager che sono stati scelti da azionisti storici insieme ai grandi operatori dei fondi internazionali, parlo da BlackRock e tutte le altre. Fare scelte di questo tipo, che hanno un impatto fortissimo sul valore dell'azienda e dei titoli, non si può pensare che sia affidato alle non antipatie. Puoi farti guidare dal cuore. Questo bisogna fare attenzione, semmai questo tipo di relazioni tese sono il risultato, ripeto, di un passaggio di Mediobanca da cassaforte a società che opera sul mercato senza fare le grandi partecipazioni nobili, invece a un ruolo di Intesa che, dopo aver smontato un po' il ruolo di banca di sistema, ha ricominciato e sta ricominciando a sostenere questa nuova ristrutturazione del nostro sistema capitalistico. Da abbiamo visto il caso di Alitalia, abbiamo visto il caso del Corriere. Certo. E ne vedremo probabilmente anche. No, Luxottica fu operazione di Mediobanca. Sì, infatti, andò al francese. Anche questo dice proprio questo. Mediobanca non è che ha blindato il controllo di Luxottica, come sarebbe avvenuto in altri tempi, ma ha fatto da scivolo per il passaggio e l'alleanza con i francesi. Grazie anche a Alessandro Praterotti. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo come sempre domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni, le auguro di una buona serata. Radio 24. Libera la voglia di fare.